più fortuna e gioia in cuore, ora capisco ecco il perché, è partita la rondinella, bimba andata sei pur te. Sì, sì, sì, rondinella bruna, simbolo di fortuna, sì, sì, sì, rondinella bruna, sono ancora qui. Sì, se la mia buona mamma, conosco un detto antico che dove la rondine fa il nido, fortuna un cuor felice se. Allora le chiesi, mamma dice, cosa vien se la rondine va? Quando essa è partita, torna l'infelicità. Non ti odo più, rondinella bruna, timo di fortuna. Sei partita tu, perché ero per mare, non ti vedo più. Non ti ho fortuna, gioia in cuore, ora capisco il tuo perché. E partita la rondinella, bimba andata sei pur te. Sì, sì, sì, rondinella bruna, timo di fortuna. Sì, sì, sì, rondinella bruna, sono ancora qui. Rondinella bruna, sono ancora qui.